Noi vogliamo pubblicamente manifestare il nostro dispiacere per la definitiva perdita di un polmone pubblico cittadino che adesso non c'è più. Quindi i cittadini si sentono un po' in lutto. Questi alberi erano presenti nell'area da più di 60 anni, hanno accompagnato quasi la vita di molti residenti, dando vita, colore, frescura, e adesso improvvisamente questa area non c'è più. Quindi si sentono sicuramente un po' in lutto e volevano idealmente porgere un ultimo saluto agli alberi, anche un segno di rispetto. Vogliamo anche che ci sia e ci continua a essere un'attenzione su quest'area e su quello che è avvenuto. Su quest'area voi avevate raccolto anche le firme, ma non solo, avevate presentato un progetto di riqualificazione che non prevedeva l'abbattimento di questi alberi. Esatto, perché noi nel momento in cui ci siamo avveduti dell'inizio dei lavori da parte di Aldi Immobiliare, abbiamo cercato di capire cosa dovesse essere realizzato in quell'area. Abbiamo fatto un accesso agli atti, abbiamo appurato che riguardo all'area verde dovevano essere completamente abbattuti gli alberi ivi presenti e poi sostituiti con 6 alberelli con uno stradello trasversale che univa l'area dei parcheggi di nuova realizzazione con via Decumana. Ci siamo subito preoccupati non solo perché il progetto era assolutamente minimale, non erano previste nemmeno delle panchine e quindi era stato concepito come mera area di passaggio tra la via e il parcheggio, ma avevamo la preoccupazione per l'abbattimento degli alberi, ma tra l'altro dovevano essere sostituiti con quei classici minuscoli alberelli che siamo abituati a vedere nelle aree adiacenti al supermercato, e non sarebbe stata una bella sostituzione, insomma. E da allora ci siamo attivati perché quest'area venisse riqualificata, però nel migliore dei modi possibili. Così non è avvenuto, perché nel novembre scorso questi alberi sono stati abbattuti. C'è stata anche una perizia che parlava di una contaminazione dei terreni, che però voi mettete in discussione. Certamente, perché era stato avviato un percorso con l'amministrazione per si riqualificasse l'area mantenendo l'attuale alberatura o quantomeno la maggior parte degli alberi. Noi ci eravamo attivati, sempre in accordo con l'amministrazione, di presentare, come poi abbiamo fatto, un progetto di architetti paesaggisti, quindi abbiamo dato un contributo forte all'amministrazione perché quest'area diventasse quasi un fiore all'occhiello, un modello del quartiere, ma anche un modello da replicare anche nella città di Bologna, come compartecipazione tra cittadini e amministrazione, e poi che si realizzasse non una mera semplice area verde, ma addirittura anche con un'impronta artistica, anche con valore storico, perché lì era presente anche un capitello e quindi avevamo chiesto che venisse valorizzato. E tra l'altro anche le perizie degli alberi non presentassero quei requisiti per il necessario abbattimento. Poi è emerso che l'area era contaminata e noi però riteniamo che il livello di contaminazione non fosse comunque più elevato, quindi eventualmente anche tramite ulteriori rimedi, anche tipo fitosanitario, si poteva ovviare a questa problematica. Vi rimane ovviamente l'amarezza perché gli alberi sono già stati abbattuti e ci sarà questo simbolico funerale. Grande amarezza non solo per la perdita definitiva degli alberi, ma anche per l'interruzione brusca, inaspettata, del percorso che era stato avviato, tra l'altro inizialmente con Aldi. Però a un certo punto Aldi ha deciso unilateralmente di abbattere gli alberi. Ci auguriamo quindi adesso che l'amministrazione possa attivarsi, i cittadini continueranno a vigilare affinché quest'area venga realizzato un progetto che sia il migliore possibile secondo i più corretti canoni paesaggistici, urbanistici.